Ho suonato due volte anche se avevo la chiave. Non so mai se sei pronta, adesso fatti guardare. Apriamo a caso l'elenco e vediamo dov'è. Che si balla al flamenco in questo weekend. Non ci vuol niente, lo sai. Il segreto è non vergognarsi mai. Delle stelle che ha, quella che hai lì sulla fronte, non levartela mai. Bella tu sei davvero, ed aumenta il mistero il fatto che non lo sai. Baby, non vergognarti mai. Rimessi denti a posto, riequilibrato il peso, neanch'io ti riconoscerei. Ma no, oh, oh, oh. Però quell'incertezza, gli occhiali a terra presa, preferisco come sei, così come stai, con tutto quello che mi dai. Baby, non cambiare mai. Andare a rubare la notte tutte le stelle che ha. Quella che hai sulla fronte non le va della mai. E puoi dire allo specchio che sia meglio di lui. Oh, due comete nel cielo che non sentono mai. Che ogni notte si accendono